Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Non mi piace che tu vada in giro a importunare i nostri cittadini col tuo cognome da mezza sega, con la tua faccia da mezza sega, con i tuoi modi da mezza sega, e non mi piaci tu, mezza sega. Se il Partito Democratico dovesse perdere sia a Milano che a Roma, lei si dimetterebbe da Presidente del Consiglio come fece D'Alema quando perse le regionali? Assolutamente no. Abbiamo già detto che l'esito della permanenza al governo è legato al referendum. Siamo stati accusati di aver personalizzato il referendum per aver posto un collegamento tra riforme costituzionali e prolungamento dell'esperienza di governo. Non vedo che cosa c'entri l'esperienza amministrativa. Certo, se il PD perde a Roma, per esempio, ho l'impressione che saltino le Olimpiadi del 2024. Cioè, no, io certo. ho grande autostima, ma non è che prendi e cambi metodi che sono vecchi di anni. Piano piano ce la facciamo. Non abbiamo avuto abbastanza coraggio? Le garantisco che c'entriamo con lanciafiamme da dopo il ballottaggio, questo è sicuro. Noi nel partito c'entreremo per motivi, perché ho cercato fino all'ultimo di tenere tutti buoni, tutti avvertiti, insieme. Alla fine arriverà il lanciafiamme di Renzi. Ma no, non è che lanciafiamme, è che bisogna avere un po' di cambiamenti, perché non è possibile che alla fine noi continuiamo a detto questo. Siamo la più grande comunità politica d'Italia. Ma lei pensa delle espulsioni? Ma che espulsioni? Le espulsioni le fanno gli altri. Ma che espulsioni? Il lanciafiamme direttamente, perché espulgerli, come direbbe mio figlio, perché espellerli? Il lanciafiamme, no, signore, arriva il lanciafiamme di Renzi. Ah, vorrei dire una cosa, forse, vabbè, per sintetizzare, Renzi ha detto che se il PD perde a Roma salteranno le Olimpiadi del 2024. Vorrei rassicurare tutti gli amici sportivi, le Olimpiadi, i giochi olimpici del 2024 si terranno indipendentemente dalla vittoria dell'uno o dell'altro a Roma. Magari non si terranno a Roma, magari più che altro salterà la candidatura alle Olimpiadi, ma i giochi olimpici del 2024 si faranno comunque. Allora, saluto tutti i nostri ascoltatori da Porto Gruaro. Vedete, poi me li perdo perché intanto passano Rosanna, eccolo qua. Rosanna ci tenevo da Porto Gruaro. Ma perché venite una telefonatina da Dinolfi? Ah, il prefisso ve lo suggerisco io, 06. Non è male. Peraltro l'abbiamo già chiamato il primo giorno. Ci salutano da Porto. Ah, chi ha rubato la battuta a Crozza? Questa è 06. Senti Crozza su Adinolfi. Giova, Renzi ha detto testualmente: non siamo contenti. Non siamo. Ha usato il plurale: non siamo contenti. Guarda che è forte Renzi, eh? Quando vince dice io, e quando perde dice noi. Diciamo che quando perde diventa democratico. Un altro che da Roma esce a pezzettini è Mario Adinolfi, poverino. Lui ha preso lo 0,6% col Partito della Famiglia. Praticamente con lo 0,6% non l'ha votato nemmeno la sua di famiglia. Lo 0,6 è poco, eh. Vabbè. Elezioni a Roma. Voglio intanto salutare Carla Rocchi dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Buongiorno. Buongiorno. Tutto pronto per il ballottaggio? Siamo pronti. Prontissimi? Sa già chi vota? Sì, certo, spero che ho già votato. Ma si può dire? Ma certo, l'ho sempre detto, io voto Giachetti. Giachetti, voto Giachetti. Va bene, Carla Rocchi, intanto le presento il graditissimo ritorno dell'onorevole Maurizio Bianconi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Eccolo buongiorno. Qua, la voce biforcuta del Parlamento, la nostra voce. Che però lui se la prende male se dico biforcuta. Perché... Sì, perché vuol dire bugiarda, io sto bugiarda. Ma per me biforcuta vuol dire anche un po' così insinuante, proprio... Di quelli che dicono che non hanno peli sulla lingua, ecco tutto qua. No, gli indiani come facevano nei giornaletti, quelli che fecero dalla casa, dubbio, uomo bianco, lingua è lingua bifo. Vuol dire bugiardo. Bugiardo, no, però io non lo intendo così, ecco, se si può capire. Va bene, allora, dobbiamo aprire il Parlamento? Di un colore solo alla città. Ah, l'inno dell'Arezzo? Bravo. Amaranto. Amaranto è il colore dell'Arezzo, eh? Sì. Vabbè. Arezzo cavallo rampante. Vabbè, Arezzo cavallo rampante, Arezzo squadrone importante. No, potente. Ma perché io capisco sempre importante? Però ci stava meglio. No, potente. Dai, apriamo il Parlamento, forza! Apriamo il Parlamento adesso, che dobbiamo parlare di tutte queste cose. Si fermare con noi, Parlamento. Allora, Carla Rocchi, attenzione, se vede Renzi a girarsi con lanciafiamme a Roma, è tutto a posto, sta recandosi alla sede del Partito Democratico dopo il 22 giugno. La cosa divertente è finora li ho tenuti, ho fatto di tutto per tenerli buonini. Sì, e quello dopo, no? Se li voleva tenere cattivini, cosa avrebbe dovuto fare? No? Sì. Pronto. Vabbè, Bianconi sarà contento. Ma io dico che li ha massacrati tutti, li ha rottamati, li ha sputtanati, li ha vinci le diversioni con l'80%. Sì. E in realtà è tutta una farsa, perché lui pensa di fare il segretario di un partito complesso come il Partito Democratico a tempo avanzato, prima fa il Premier. Sì. La verità è che lui voleva fare il Presidente del Consiglio. Quando capì che se non diventava segretario del PD non faceva il Presidente del Consiglio, fece anche quella tappa obbligato. Di avvicinamento. Vabbè. Sì, ma lui se ne è sostanzialmente ha pensato di potersene fregare del partito, invece non ha capito che se lui viaggia nel Freccia Rossa. In Italia ci sono moltissimi treni locali che viaggiano. Ah, ecco, bella questa, eh. Lui in Freccia Rossa, ma i treni locali ci sono. Viaggiano perché. Se n'è accorto le amministrative, se n'è accorto di lei. Insomma, sì, ma se ne è accorto, ma stia ben attento, Milano. Lui è molto berlusconiano. A lui delle amministrative non importa molto, importa per la figura che fa. Ma di perdere le amministrative rispetto al governo non è che importa. Vabbè, che gli importi più il referendum, l'ha detto. Però sai, se perde Milano, se perde Roma... Significa tutta la pericolosità dell'uomo, però, Milano, ecco, perché ecco. È un referendum che attiene al gradimento o meno delle regole generali del nostro Stato. Sì. Non è che attiene o meno al gradimento del governo Renzi. Il fatto che lui si impossessi dei referendum che sono di regole, che dovrebbero essere di tutti, come un referendum fiduciario su se stesso, significa che giusto in diritto costituzionale a zero, ma soprattutto che se ne fosse della Costituzione, della democrazia e dei cittadini. Eccolo lì. Questa è la verità. Adesso Carla Rocchi, che ha votato Giachetti. Perché Giachetti è una cosa e Renzi è un'altra cosa. Ecco. Perché Giachetti è una persona per bene. Sì, difatti, ma poi un amico e una cosa, Giachetti è una persona tranquilla, dire da tranquillità, è una persona per bene, è una persona che ha già governato Roma, è una persona che l'ha fatto l'ha fatto bene, l'ha fatto onestamente, insomma non vedo che ci sia da giustificare un voto per una persona per bene. Mentre invece quello che trovo intrigante è questa cosa del referendum. Pensateci bene, questo referendum si porta dietro la legge elettorale. La legge elettorale è fatta apposta per un partito di maggioranza, che abbia la maggioranza. Ma se a quando arriveremo al referendum il partito che ha la maggioranza non sarà quello democratico, che farà Renzi? Darà indicazioni per il sì? Darà la libertà di coscienza? Dovrà fare la campagna per il no? No, questo proprio, penso di no, ormai la campagna è fatta, insomma, per il sì. No, c'è la possibilità di servire su un piatto d'argento il referendum ai 5 Stelle. Però, ma perché? Attenzione, perché a proposito dei 5 Stelle, ora sui giornali si racconta che per i ballottaggi c'è questa eventualità di fantapolitica, e cioè l'asse Lega Movimento 5 Stelle tutti uniti pur di cacciare Renzi. Sai che Salvini ha detto mi scambio SMS con Di Battista, io ottimi rapporti, ci ho parlato anche uno anche ieri, però... Ma se li manda a fare in culo ogni due giorni, ma perché a me no, altri non lo so, a me no, io penso che di me abbiano stima parecchio. I 5 però, Stelle. Detto questo, non è che Salvini si mette d'accordo con Di Battista, è che le pulsioni antisistema che sono dentro il Movimento 5 Stelle sono dentro la Lega e sono dentro molti elettori della destra. Sì. E quindi non è un incontro diverso. È un incontro di elettori. Non è che si mettono a fare dei patti, degli incontri, delle cene. Sono convinto che se Lavaggi vince a Roma, vince perché è la destra che gli dà i voti, non la sinistra. Vabbè, ma cioè, quindi... E se così l'Appendino vince a Torino è lo stesso. Ma insomma, da qualche parte uno d'altronde i voti li deve prendere, li deve se chiedere. Se non stanno a casa... Ma diciamo la verità, Bianconi, pur di cacciare Renzi, perché lei è un grande nemico politico di Renzi, voterebbe, farebbe una sorta di alleanza di elettori col 5 Stelle, con la Lega, con tutti, col diavolo, con tutti? No, diceva Tommaso Campanella che per fare la Repubblica sarebbe alleato anche con lui. Ora, io non è che sono Tommaso Campanella, però... pure Correa, non è male, per sostenere la Repubblica. Però il discorso è che... Porre il fatto di Renzi sulle questioni delle amministrative mi sembra una gran cuglioneria. Dargli una botta, insomma, per dargli una no, botta. No, ma la botta non gliela dai mai, perché la botta gliela danno da dentro. Non gliela danno se vince o perde i giacchetti. Ma da dentro, da dentro c'è lanciafiamme. Se la raggi a Roma, il popolo italiano sarà posto di fronte alla verifica se il 5 Stelle è in grado di essere forza di governo. E questa la vera pericolosità per i 5 Stelle vincere. Vabbè, ho capito, che deve fare, non devono perdere. C'è un complotto per appunto, che devono fare? Prima o poi, se vogliono diventare maggiorenni, dovranno anche governare una città così importante, insomma, no? Sono dei rischi grossi, insomma. Però è interessante, ma Carla Rocchi... Chiaro, vorrei capire da Rocchi se questa politica di intrighi non le manca un po', no? Che è stata Per niente. Meglio gli animali. Io mi annoiavo tanto anche allora. Non sono mai... Pensi che io non ho mai avuto una sia pur piccola o grande corrente. Io sono stata eletta in 4 volte, in 4 legislature. Avere queste tessere, fare tutti questi inciuci... Può essere una modalità, ma c'è anche un'altra modalità che è stata quella mia. Pensi che io non ho mai dato una cena elettorale. Mai. Al limite cibo per cani. Niente. Cibo per gatti. Mille volte. Le correnti non sono ore per pigliare i voti dopo. Le correnti sono per assicurarsi le candidature prima. le mezze tacche che non hanno una personalità tale per quale i partiti non riescono a farle a meno. Devono correre alle correnti, che quando fanno la spartizione delle candidature ci mettono 3 a me, 2 a te, 4 a lui. Però io ho citato Di Battista, sentite qui Di Battista che ha detto: spero che Berlusconi... Che succede a Berlusconi? Un augurio di pronta guarigione, speriamo che non sia nulla di grave. che possa lasciare presto l'ospedale e andare a casa. Quando si tratta di Berlusconi, io spero sempre che vada a casa in tutti i sensi. Comunque, i migliori auguri. Cioè, vi rendete conto? In tutti i sensi. Bellissimo. Spero che vada a casa in tutti i sensi. Siamo proprio uguali. Uguali. Spero che non gli succeda niente, no, vada a casa in tutti i sensi. Dai, Bianconi, faccia un bel augurio a Berlusconi. Lei che è stato Berlusconi, con Berlusconi. Io gli voglio bene. Gli voglio bene. Gli voglio tanto. Talmente voglio bene che non vede l'ora che se ne... Lo voglio vedere tanto, gli voglio così bene, che lo voglio vedere tanto in salute che vada a casa e si riposi parecchio. Perché se prima magari una firmetta per vendere il Milan, dai. Dai, una firmettina. Ma il Milan lo sai di quant'è che la belle venduta? No, come la belle venduta? Mi piglia tutti in giro anche nel calcio. No, come la belle lo venduta? Lo sai che la mattina quando lei si leva, che si leva presto, Milan alle 6:30, sì, anche Berlusconi alle 5. Che si leva prima di lei l'ha già preso per culo 20 volte. Lo sa o no? Addirittura, io mi sveglio alle 5 per pigliarmi per il culo 20 volte, deve svegliarsi almeno alle 4:30 Berlusconi. Che si svegli presto la mattina parecchio. Va bene, va bene. Io mi devo svegliare alle 5 con questo pensiero. Berlusconi mi ha già preso per il culo 20 volte. Pensate che bel risveglio, il traffico. Ci facciamo i chilometri, superiamo gli ostacoli del traffico. Traffico. Ercupone dichiara: e beh, io darò il voto al sindaco o al presunto tale che sarà favorevole alle Olimpiadi. A Francia, ma in tutti questi anni, visto come ti hanno conciato Roma nelle feste, ma si può sapere chi cazzo hai votato? Giacchetti, tanto il posto ce l'hai caldo, torna dal Senato! Alino, ma dai, ma lascia stare questo cazzo di Olimpiadi, che Roma sta ancora finendo di pagare i debiti d'Italia 90. Iniziate a finire le piscine per i mondiali di nuoto, ci sono stati 10 anni fa, poi ne riparliamo. La canzone più o meno fa: Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Che bella ballata tedesca anni 70. Ieri è stato il tormentone qui al Parlamento per un messaggio in segreteria. Era questa la canzoncina di un film. Non mi azzardo a cantarla anche perché è in tedesco. Allora, siamo con Maurizio Bianconi e siamo con Carla Rocchi. Mamma mia, questa storia delle Olimpiadi! Basta! Oggi Montezemolo ne parla il Corriere della Sera, bisogna fare le Olimpiadi. Il Messaggero fa un sondaggio, il 56% dice a favore delle Olimpiadi. No, la SVG. Sì, però il Messaggero, qualcuno fa notare che Caltagirone, l'editore, potrebbe essere interessato, insomma, alle Olimpiadi. Senta, Milan. Sì, sì. Tanto, se dice che Montezemolo si devono fare le Olimpiadi, se va bene chiude subito bottega. Questa no, è la prima considerazione. La seconda considerazione è che una volta tanto il Movimento 5 Stelle adopera il buon senso e dice: ci sono tante cose normali da fare. Si può confidare in un evento di quella fatta lì? Non solo. La storia italiana ci dice che tutte le volte che abbiamo fatto uno di questi eventi abbiamo pagato un po' di soldi e poi e scandali e gente in galera eccetera. E poi siamo un popolo così abituato a non farci la fortuna giorno per giorno, ma aspettare sempre il miracolo. Il miracolo, allora, le Olimpiadi risolveranno ogni problema, no? Ogni problema lo risolveranno se i romani smetteranno di... Ma sì, le buche, non so, Carla Rocchi che ne pensa? Io penso che non si debbano fare. E come va? Allora vota Giachetti. Io penso, non è che l'unico punto del programma di Giachetti siano le Olimpiadi. Tanto non si faranno, nessuno di buon senso darà le Olimpiadi. Ma come, Renzi ha detto che se perde il PD nel 2024 i giochi olimpici non ci saranno. E beh, hai capito che tragedia. Ma non ce le darà il consesso internazionale. L'Italia sotto questo profilo non è affidabile. inevitabile. E questa delle Olimpiadi è una roba messa lì proprio per, non lo so, secondo me più per vecchia abitudine che per nuove promesse. Ma cosa vuole che gliene importi alla gente delle Olimpiadi? Ma sembra che sia il dibattito numero... Cosa vuole a quelli che hanno dovuto restituire gli 80 euro? Voi restituite gli 80 euro, però abbiate fede, faremo le Olimpiadi. Non si sta proprio come discorso. Ma io sono d'accordo, però incredibilmente è entrata una campagna elettorale. Cioè ieri Renzi si è seduto da Lilli Gruber e l'ha detta come prima cosa... Come prima cosa, più che altro se perdono non ci saranno le Olimpiadi, vuol battere il tasto su questo, le Olimpiadi, il sogno, la rinascita della grande Italia. Non so, qualche volta arriva un momento in cui non si trovano le priorità giuste, arriva per chiunque, secondo me non è stata una battuta proprio sensazionale. Sì. Comunque io non credo che ci saranno e spero ardentemente che non ci siano. A Roma. In realtà non è ormai una roba che anche le Olimpiadi... Ah, proprio manco abolirebbe anche quelle di quest'anno. Non niente, che non si faccia a Roma secondo me è molto importante, anche perché a Roma chi ci viene, chi ci abita, chi ci sta che ancora siamo con le vecchie pezze del passato, quindi serve di mettere cose nuove. Ma lei Rocchia che ora si sveglia? Io mi sveglio quando mi svegliate voi a quest'ora qui, altrimenti una mezz'ora dopo. Alle 7, quindi se io alle 5 vengo preso per culo da Berlusconi già 20 volte, Carla Rocchi, non so... Ma Berlusconi non credo che si svegli pensando a me. No, prima. Non credo di essere in cima ai pensieri di Berlusconi, sono fuori da questo però circuito. Applicando questo metro alle 7, Bianconi, insomma... Berlusconi guardi, nel frattempo... io penso che... Parla con me? Sì. Io penso che lo svegliarsi presto sia obbligatorio per far bene ogni cosa. Perché la mattina organizzi la tua giornata. Non è proprio il mio primo pensiero. E quando la famosa, c'è quel detto, no? Tutte le mattine c'è una nella giungla, c'è uno che si sveglia, che corre, ti devi correre, ti perde. Sì. Te quando ti sei svegliato prima hai già fatto diversi giri di pista rispetto ai tuoi concorrenti. Pensavo a Di Battista io. Di Battista ha detto una sciocchezza. Cioè? Ha detto una bella battuta, ma una sciocchezza. Perché Berlusconi politicamente a casa per lui è la rovina. Berlusconi in campo tiene ancora divisa la destra e fa da spalla a destra di Renzi e quindi lo danneggia. Ho capito, ma divisa. Ma chi sarebbe il nuovo leader della destra? Chi sarebbe? La Meloni? Salvini? No, Bianconi? È questo il punto. Vedi? Lì ci sono una serie, direbbe De Luca, di personaggi e che pensano di poter fare il leader non prendendo il 2% in tre quarti d'Italia, la Meloni non prende il 2% in tre quarti d'Italia e dalla Toscana in giù non prende il 2% neanche quell'altro, e si stanno giocando la leadership di una nave che affonda. Nessuno pensa a fare un progetto per riparare la nave, rimetterla in testa e poi dire chi la comanda. È per quello che Berlusconi sta lì. L'ho raccontata ieri a un'altra radio. Quando è un male della destra, quando i gerarchi fascisti andavano in colonna verso Dongo, che dopo venivano fucilati dopo due ore, e alla colonna mancava una macchina, e tornavano indietro a vedere cosa era successo e trovavano Barracco e Pavolini, che erano due gerarchi, che picchiavano di santa ragione. Lo sa cosa facevano? Che facevano? Criticavano il Ministero degli Interni della Repubblica Sociale Italiana. Non erano ancora insediati così, ma il Ministero dell'Interno lo faccio io. Però insomma non va della destra questo qui. Comando io. L'ha detto ad altre radio, insomma ci ha tradito. Bianconi va ad altre radio. L'hanno chiesto, l'ho detto. È uno disponibile. Però in conclusione vi voglio far sentire nel dibattito tra onorevole Richetti e Daniele Capezzone. Alla puntuale e condivisibile riflessione dell'onorevole Capezzone. No, Carla Rocchi, Richetti. È un'eleganza suprema. Elegantissimi. L'onorevole. Parlamento così elegante è da rimpiangere. No, l'onorevole Cazzone, no. Neanche Bianconi l'avrebbe studiata così maligna, l'onorevole Cazzone. Vabbè. È passata. Vi devo ringraziare Maurizio Bianconi e Carla Rocchi. Alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan